Italia in controluce, la politica nel tunnel. Italia in controluce, buongiorno da Vincenzo Miglietta dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. E buongiorno da Elisabetta Fiorito. Alle 17 il giuramento qui a Montecitorio di Giorgio Napolitano per il suo mandato bis, attesa per le indicazioni programmatiche del PDR alle forze politiche. PDR sta per Presidente della Repubblica, non è un nuovo partito, Vincenzo, anche se molti parlano di un governo del Presidente. La domanda allora che rivolgiamo ai nostri ascoltatori oggi è la seguente: la soluzione di Napolitano per traghettare il paese fuori dalla crisi è giusta o magari preferivate qualche altro nome diverso per il Colle? Ricordiamo che ci potete inviare i vostri sms al 349 238 6666 per dirci il vostro gradimento su il mandato bis del presidente Napolitano. Vincenzo. Sì, e in attesa dell'intervento del capo dello Stato qui a Montecitorio sono le divisioni del Partito Democratico ad animare il dibattito politico. È un partito spaccato, quello uscito dalla corsa per il Quirinale, con accuse reciproche di tradimento per aver affossato in due giorni due nomi storici del PD, Franco Marini e Romano Prodi. E tu, Elisabetta, hai ascoltato su questo Gianclaudio Bressa del PD. Sentiamo. Onorevole Bressa, noi ancora non abbiamo capito chi ha tradito Romano Prodi, perché c'è un po' di caos nel PD. Ha poca importanza sapere chi è stato, sono stati 100 traditori e questo purtroppo basta e avanza. Però dice Civati, allora i traditori saranno quelli che poi diventeranno ministri, questa è una manovra della vecchia politica che non vuole andare al voto. In un momento così drammatico commentare queste sciocchezze è privo di senso. E si andrà al congresso, ci sarà una sfida Renzi-Barca? Ci sarà un congresso e vedremo chi saranno i candidati al congresso. Adesso c'è da votare la fiducia al governo ed è questa la cosa più importante. Cosa si aspetta da questo discorso di Napolitano oggi? Che un fortissimo attacco all'irresponsabilità dei parlamentari che hanno prodotto questo risultato. Ma rimarrà per 7 anni oppure verrà prolungato questo mandato per 1 anno e poi magari si ritirerà il Presidente, visto che ha 88 anni? Visto che io non sono di professione un astrologo, mi limito alla Costituzione, il Presidente eletto resta in carica 7 anni. E abbiamo sentito Gianclaudio Bressa, abbiamo sentito proprio anche il nervosismo che c'è nel PD e i vostri sms ci raggiungono copiosi e tutti dicono: preferivo di gran lunga Rodotà, Donatella da Genova, Rodotà o Prodi, era l'unica quindi la meglio possibile. Un altro radioascoltatore: che vergogna, tutti uniti quando si tratta di non cambiare, per Roberto da Bergamo. Insomma, vediamo che il nostro pubblico un pochino diviso, però qualcuno, anzi la maggior parte, avrebbe avuto voluto magari un cambiamento, anche se per esempio Guido da Bergamo dice: meglio Napolitano che un salto nel vuoto con i disfascisti grillini. Vincenzo. Sì, altro fronte caldo è quello del Popolo della Libertà, l'atteggiamento di Via dell'Umiltà non cambia in queste ore, governo di larghe intese o voto, è quanto conferma Cicchitto, ascoltiamo le sue parole. Vale per il governo quello che abbiamo detto nel corso di tutti questi giorni per il Presidente della Repubblica, noi non ci siamo mai schematizzati sulla tessera che in tasca che doveva avere il Presidente della Repubblica, abbiamo detto che poteva essere benissimo anche del PD purché fosse un Presidente di garanzia, e ne avevamo accettato uno che era nella rosa presentata dal PD e un personaggio autorevole del PD, mi riferisco a Franco Marini, già Presidente del Senato. È stato il PD che ha affossato questa ipotesi, poi il PD per parte sua ne ha avanzata un'altra di segno opposto, cioè di scontro con noi, e non è passata neanche questa. Quindi il risultato, il contributo che ci dà Napolitano si riferisce ad una situazione politica così difficile. E per quello che riguarda il governo, noi ridiciamo la stessa cosa: c'è stato un risultato elettorale che ha senza vinti né vincitori sostanzialmente, con 3 forze prevalenti. Una di queste forze è chiaramente, diciamo così, alternativa a tutto, che è il movimento del a 5 Stelle e questa alternatività l'ha manifestata anche in modo assai pesante davanti al Parlamento con una manifestazione molto discutibile. A questo punto noi riteniamo che si debba fare quanto prima un governo che sia il frutto dell'incontro fra il PD, il PDL e la lista civica, senza che queste forze si vergognino l'una dall'altra. Queste le parole dunque di Cicchitto del Popolo della Libertà. Cicchitto già si proietta, Elisabetta, al governo imminente di larghe intese, ma noi restiamo per un momento sugli SMS e sulla nostra domanda: Napolitano sì, Napolitano no. E un nostro ascoltatore paragona Napolitano a mangiafuoco, tiene in piedi il teatrino destra e sinistra e poi tanti Rodotà, Patrizia, Lorenzo, tutti SMS, almeno gli ultimi che stiamo leggendo a favore di un ricambio, Elisabetta, al Quirinale. Sì, e c'è anche un radioascoltatore che dice: Napolitano ha 88 anni, era meglio Rodotà. Suggerisco che Rodotà ne ha 80, sempre la meglio gioventù, proprio beati, avanti i giovani, Vincenzo, in questo paese. È così. Parleremo tra breve delle prossime tappe parlamentari e del governo di larghe intese. Ci fermiamo in questo momento sul Movimento 5 Stelle. Ieri giornata romana per Beppe Grillo, prima una lunga conferenza stampa, poi un corteo dei parlamentari grillini. Oggi Grillo torna a scrivere sul suo blog, è con noi Andrea Viali. Andrea, quali sono le novità di giornata? Sì, è così, Vincenzo. Beppe Grillo oggi è tornato a parlare di questa rielezione di Napolitano e sul blog ha scritto che con quanto successo, aperte le virgolette, la Repubblica, quella che si dice democratica e fondata sul lavoro, è morta. Pensi al sorriso raggiante di Berlusconi in Parlamento e ti domandi come è possibile tutto questo, si chiede Grillo, secondo il quale è sconfortante ripensare ad una serie di vicende che vanno dai processi di Berlusconi a Montepaschi di Siena, alle stesse telefonate fra Mancino e Napolitano, ai saggi e al loro lavoro, dice Grillo, per proteggere la casta. Comunque, secondo il comico, quanto successo fa tutto parte di un piano che è stato preparato con cura, un piano che si concluderà con un governissimo che avrà come programma l'agenda Monti, ma anche l'agenda dei saggi di Napolitano. Napolitano che sarà anche il garante, il protettore di questo governo, di cui, dice Grillo, si sa già anche il nome del primo ministro, che sarà Enrico Letta o Giuliano Amato. Grillo però avverte in questo post sul suo blog, dice: entro alcuni mesi l'economia presenterà il conto finale, sarà un conto amarissimo, poi però ci aspetta una nuova Italia, sostiene il comico, convinto che l'unica possibilità di cambiamento per il paese in questo momento sia rappresentata dal suo movimento. Movimento, lo dicevi, che ieri ha manifestato a Roma. Non c'è stata la marcia su Roma invocata sabato da Grillo, che ieri anche per motivi di ordine pubblico in verità si è concesso poco alle migliaia di simpatizzanti 5 Stelle che hanno risposto al suo appello. In compenso però Grillo ha parlato con i giornalisti e ha usato toni più morbidi rispetto a quelli di sabato. Ha derubricato questa rielezione di Napolitano a golpettino. Sabato invece, lo ricordiamo, aveva gridato al colpo di Stato e le sue parole avevano alimentato qualche tensione e soprattutto molte polemiche che evidentemente lo hanno convinto a moderare un po' i toni, anche per scongiurare i rischi di proteste violente, che invece, è giusto dirlo, comunque non ci sono state. Ieri la manifestazione dei grillini è stata assolutamente tranquilla, Vincenzo. Grazie, grazie Andrea Viali. Povero Napolitano tirato per la giacca alla sua età, scrive un nostro ascoltatore. Onore e massimo rispetto per Napolitano. Napolitano, Elisabetta, che oggi sarà qui a Montecitorio alle 17. E allora veniamo agli appuntamenti, anche se i vostri SMS sono anche molto divertenti. Ci sono anche i grillini che ci scrivono e dicono: viva il Movimento 5 Stelle, preferivo Rodotà, preferivo Anna Severino o a un'altra radioascoltatrice, la Cancellieri. Anche io, essendo una donna, preferivo una donna. Veniamo oggi alle 17 qui a Montecitorio, il capo dello Stato giurerà e si preannuncia un discorso molto duro alle Camere sulla responsabilità dei parlamentari di traghettare il paese fuori dalla crisi. Si parla di un possibile incarico, possibilmente a Giuliano Amato, già per mercoledì, consultazioni domani, e addirittura giovedì si potrebbe sciogliere la riserva e venerdì il voto di fiducia. Tutto quanto molto in fretta, per 2 mesi siamo stati fermi, adesso si corre al sprint finale, Vincenzo. Un nome è quello di Giuliano Amato, che vede però le resistenze forti anche della Lega. Comunque, Giuliano Amato eventualmente a Palazzo Chigi, i due vice premier potrebbero essere Letta ed Alfano, e poi un governo massimo di 10 ministri tra tecnici e politici. Comunque, Elisabetta, lo dicevi, ne capiremo di più nei prossimi giorni, entro una settimana avremo il governo. Si sa solo che probabilmente il programma del governo sarà quello già scritto dai saggi per Giorgio Napolitano. Un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.